Vieni al Tour de France, vieni insieme a me. Un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis Jean Bobin. Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Radio Bidon, in diretta dai Pirenei del nostro cuore, nello specifico in diretta dai nostri divani, su cui ci siamo arrampicati questa mattina come se stessimo salendo sui Pirenei, per empatia con chi pedalerà da queste parti in questo pomeriggio, nella giornata di domani. E le pendenze sono un po' diverse, il caldo penso che sia simile, almeno per quanto riguarda la componente redazionale che sta a Milano. Non so se in Puglia la situazione è migliore. Leo, cosa ci dici? Fa caldo, tanto. Ok, quindi siamo solidali quantomeno con i protagonisti del tour, che peraltro sembra che un po' di pioggia loro riescano a prendersela e forse se la eviterebbero. Non abbiamo ospiti in questa puntata di oggi, abbiamo però Leonardo Piccione, che avete già sentito direttamente dalla Puglia. Ospiti più importanti di così, trovali. Sarà dura trovarli. Io sono Filippo Cautz, come ogni giorno sta a me l'ingrato compito di aprire le danze, e abbiamo però di nuovo insieme a noi Riccardo Spinelli, un altro elemento della redazione di Piton, che si era imboscato ed è tornato. Dove eri stato? Niente, durante la sesta tappa al terzo chilometro è partito Rashiro, quindi mi sono fiondato sul Monte Fuji in un monastero a pregare. E niente, no, in realtà ero in università. Dai, ci avevo creduto al fatto del Fuji. Sarei andato volentieri, in realtà no, però Rashiro è veramente andato in fuga al terzo chilometro della sesta tappa e ha vinto il premio combattività, numero rosso, e in una tappa noiosissima è riuscito a dare un po' di colore. In realtà lo sapeva anche lui che non sarebbe andata a buon fine, però... Ma invece però tu invece stavi parlando di te, cosa hai fatto realmente? Niente, dovevo finire una relazione su un laboratorio di plasmi e quindi sono andato in università. No, perché dovete sapere che Riccardo è il più giovane della compagnia, è luglio per chi fa altro nella vita ed è la sua età, è anche il mese degli esami universitari. Non so se tu te li ricordi, Cautz, tuoi. Io festeggio esattamente in questi giorni, non mi ricordo che giorno, il decennale della mia laurea, per cui non me li ricordo. No, oggi, no, tra l'altro oggi è il decennale dalla vittoria dell'Italia ai mondiali del 2006. Infatti la mia laurea era più o meno coincisa con No, quello. Perché mi ferma persone per strada e mi chiedono: ma Cautz, quanti anni ha? E soprattutto, dove l'abbiamo già sentito? Cioè, questo è quello che mi si dice qui in giro quando mi incontrano le persone. Queste sono notizie strettamente riservate. Ah, ecco, vuoi mantenere un po' di riservo? Ci sta. Forse qualcuno mi ha già sentito la mia voce, forse qualcuno l'ha già sentita a Olio di Canfora su Radio Popolare, che mi dà lo spazio per blaterare di ciclismo ogni tanto. E ecco. Sull'età stendiamo un velo pietoso, dai. Va bene, non la diciamo. Considerando il decennale, considerando che io a luglio ho sempre guardato Tour de France e non ho mai dato gli esami, per cui si può fare un rapido calcolo di fuori corso, stendiamo un velo pietoso. Oh, comunque avevamo parlato di manifestazioni collaterali e gli esami universitari sono una manifestazione collaterale che dovrebbero togliere durante il Tour de France. Io la penso così, poi non lo so. Fortunatamente c'è chi non fa esami né nulla, ma si è buttato anima e corpo dentro al Tour de France. Abbiamo inviato il nostro invadente Francesco Bozzi e sentiamo cosa ci dice dalla strada di Francia. Brevissima pillola di ciclomercato direttamente da Po, dove le risicatissime finanze di Bidon mi stanno comunque garantendo una villeggiatura direi più che dignitosa. Pare che ci sia un dramma esistenziale all'interno della BMC, dove Richie Porte non capisce più che pesce essere, ovvero è passato dalla Sky alla BMC proprio per essere un capitano, ma in realtà si trova non solo gregario di TJ Van Garderen, il che ci può anche stare, ma gregarissimo direi del mitico Greg Van Avermaet. Al che Richie Porte pare si sia posto la questione: perché dovrei essere il gregario di due capitani alla BMC quando ero il gregario di un capitano alla Sky? Dubbio esistenziale amletico quantomeno condivisibile, però non sappiamo esattamente dove porterà. Detto ciò, era una pillola brevissima, io torno in villeggiatura, vi saluto da Po. Godetevi il caldo italiano. Dai Pirenei, direi che è tutto. Il caldo italiano ce lo godiamo e come già detto in precedenza, non ci godiamo il dubbio di Port, perché questi sono un po' affari suoi, per quanto probabilmente condivisibili. Mi piace molto l'idea di dove porterà il dubbio di Port, che sembra quasi un gioco di parole, e un gioco di parole sarà anche quello che si sta vivendo davvero in casa BMC, perché effettivamente a due capitani si è aggiunta una maglia gialla splendida come quella di Greg Van Avermaet, che ieri, nel dubbio, in una giornata in cui, come sempre, si attendeva che accadesse qualcosa, si è infilato in una bella fuga di 30 persone, cosa che in una tappa pirenaica non si vede sempre. Ed è sempre bello quando le fughe vanno via, è sempre bello quando sono così numerose, quando ci sono corridori in maglia gialla come Van Avermaet e quando ci sono vincitori di tappa come Steve Cummings. Allora, no, prima di Cummings però fammi... bisogna dare a Cesare quel che di Cesare. Nell'episodio precedente io fui l'unico, sono stato l'unico a dire, a pronosticare che avrebbe tenuto la maglia, riconoscetemelo. Tutti quanti a dire, ma sulla Spen la perde. Non solo non l'ha persa, ma ha guadagnato sugli altri Van Avermaet. Quindi, grandissimo Van Avermaet. Su Cummings, che ha fatto un altro numero dei suoi, ci sono due bei tweet che ho trovato. C'è il giovane Luis Menchis, come ci hanno suggerito si pronunci, che ha scritto «Un giorno, quando cresco, voglio diventare bravo come Steve Cummings». Mentre Ice, il compagno di squadra dell'inglese, gli ha fatto i complimenti dicendo «Che vittoria impressionante da parte di Steve, quando se ne va non puoi riprenderlo mai». Probabilmente è il ciclista con il più alto tasso di esecuzione di tutti i tempi. No, perché effettivamente vince sempre, quando si lancia in queste azioni non sbaglia quasi mai Cummings. Quindi... Cummings ha vinto, chi sicuramente non ha vinto, e su questo non posso che non sentire Kautz, sono i tuoi amici francesi. Pinot, Barguil ci ha provato e poi è stato respinto. Un po' meglio alla Philippe, ma lascerei dire a te. Ma è bello vedere che inizi bullandoti di aver preso un pronostico e poi infierisci su chi i pronostici li sbaglia sempre. E riguardo a Pinot, io penso che sia stato effettivamente colpito dal mio bacio della morte, perché ogni volta che do un corridore come favorito e come protagonista di giornata a quel corridore gliene succedono di tutte. Preannuncio che a fine trasmissione quindi farò i miei pronostici per la tappa di oggi e allerta pure i parenti dei coinvolti. E niente, Pinot tante altre volte l'ha ceduto di testa, io ieri penso che proprio non ne avesse, perché ha messo addirittura la squadra a tirare e poi si è scoperto senza gambe. C'è stata un'inquadratura in cui a un certo punto penso si fosse anche gettato dell'acqua addosso, ma colava una quantità di sudore e acqua abbastanza impressionante. Penso che non stesse bene, mi auguro sia un passaggio transitorio. Il suo tour a occhio e croce è andato, almeno come altissime posizioni in classifica, però dai, magari qualcosa ce lo fa ancora vedere, cioè sulle Alpi magari una bella vittoria di tappa, visto che ci vado anch'io sulle Alpi, magari gli porto sfiga da vicino. E gli altri due, Barguil e la Philippe, velocissimo? Alla Philippe penso che ne parleremo più tardi sulla tappa di oggi. Barguil in realtà poi è rientrato, ha provato un attacco, l'hanno ripreso, l'hanno staccato, poi è rientrato, poi c'è stato un ultimo chilometro che ha favorito un po' i ricongiungimenti e una giornata abbastanza barghiliana, credo che potremmo definirla. Tra l'altro Barguil è scattato e la TV francese si è dimenticato di lui e non ha fatto più vedere il gruppo con Barguil che era partito. Non so, una volta che parte un francese si sono persi lo scatto. Ma io ho un po' l'impressione che Barguil sia messo un po' in secondo piano in Francia, non so perché, forse perché Pinot e Bardet sono speranze già un po' più concrete, però mi sembra che ci sia meno compartecipazione intorno a Barguil. Poi vabbè, la regia, penso che il Tour de France ormai si stia vendendo talmente tanto come evento internazionale, sì, che anche queste scelte tipiche degli anni 80 e 90 stiano un po' decadendo. Sì, ma a proposito di regia, anche ieri non ci hanno mostrato, e sarebbe stato fantastico mostrarcelo, l'arrivo dell'ultimo. Anche ieri è stato Michael Morkop, di cui abbiamo già parlato su Facebook. È arrivato anche ieri, Riccardo? Come ultimo? Sì, è arrivato ieri con 24 minuti e 35 secondi da Cummings, e quindi ha consolidato ancora di più la sua leadership. La lanterna rossa adesso è a quasi 20 minuti di vantaggio, diciamo, cioè di svantaggio, che poi è un vantaggio, se la leggiamo al contrario, su Bennett, che è un irlandese della Borargon, e anche lui su Twitter ha detto che l'avvenimento storico che continuano a partire tutti non ci sono ritirati. Vero. E lui non vuole essere il primo, ha dichiarato. Quindi, però Morkov è lanciatissimo per la vittoria, bisogna vedere se... Speriamo che resista. Se starà nel tempo massimo anche oggi. Oggi è dura, tra oggi e domani è dura. E ieri io ero tutto il tempo sul tasto refresh della pagina del mio browser perché non compariva il suo nome. Erano 197 gli arrivati, mancava il 198esimo e temevo che fosse arrivato fuori tempo massimo, si fosse ritirato sulla salita della Spen. A un certo punto finalmente è comparso 198 Morkov e ho sorriso e sono stato felice. Non faccio pronostici sul prosieguo del tour di Morkov. No, è impossibile farne, meglio di no. Ultima cosa sulla tappa di ieri, non posso non citare anche oggi Vegard Brain, mitico brand della Fortune O, che ieri ha raccontato questo aneddoto sulla sua tappa e ha scritto così: prima di iniziare la tappa di oggi dovevo andare in bagno nell'autobus. Mentre stavo facendo i miei affari, un gruppo di tifosi norvegesi ha cominciato a cantare il mio nome fuori dall'autobus, dal pullman. Normalmente questo aiuta, ma oggi mi sono trovato ad avere problemi con la performance. E non è andato certamente meglio quando hanno cominciato a urlare sempre più forte. Questa è la sintesi della tappa da parte di Brain, che sta diventando un idolo assoluto, almeno per quanto mi riguarda, spero anche per voi. Lanciamo un appello a tutto l'internet all'ascolto, se qualcuno ci manda l'audio dei cori dei tifosi norvegesi che inneggiano a Vegard Brain, potremmo anche pensionare Dino Zandegu e avere una nuova sigla. Detto che a proposito di veli pietosi da stendere, ne stendiamo uno sopra l'arco dell'ultimo chilometro che si è afflosciato sui corridori al termine della tappa di ieri. Di questo evento ne ha scritto benissimo stanotte il nostro Angelo Trofa nel notturno che leggete ogni sera sulla nostra pagina Facebook, ed è proprio ad Angelo che lasciamo l'introduzione della tappa di questo pomeriggio con un quadro storico. Buongiorno a tutti. Il brano che vi presento oggi è un brano tratto dalla Gazzetta dello Sport del 1937, scritto da Bruno Roghi, ed è un piccolo omaggio a Ottavio Botecchia, il primo italiano a vincere il Giro di Francia nel 1924. Ottavio Botecchia è il ciclista che per primo si ribella alla legge leonina dei padroni e dei servitori, dei frac e delle livree. Avverte l'avvento sempre più rigoroso di questa legge medievale e non protesta da quel taciturno carrettiere che è, un mestiere che ha il sonaglio d'un cavallo davanti agli occhi, l'ululare dei cani notturni nelle orecchie e le stelle sul capo. Va via come andava via suo padre e suo nonno, lavoratori in tempi minuscoli, valicatori di Alpi per affaticata conquista di poco pane. Va via con la bicicletta, che gli ricorda la sua guerra, i suoi commilitoni e la sua medaglia. Va via da solo e non ha paura di niente. Ottavio Botecchia, medaglia d'argento in guerra e campione inarrivato in pace, ha il senso eroico della vita. Andò via da solo e sulle vette delle ubische del Tourmalet, i trapezzi inventati da quel diavolo di Desgrange, e tutti lo condannano per il suo presunto cinismo di massacratore di uomini, e tutti, anche per quel cinismo, inneggiano al Giro di Francia. Sulle vette dell'Obisque e del Tourmalet, Ottavio Botecchia non trovò soltanto il termine di una salita paurosa, il vertice di una fatica disumana. Trovò l'altra vetta, quella che conoscono i poeti e gli eroi, la vetta dello spirito. Corridori, se Ottavio fosse vivo e vi vedesse passare, Ottavio sorriderebbe e farebbe un cenno di saluto, di riconoscimento e di augurio, un cenno lieve, come di una piuma di gallo agitata dal vento dalla fanfara bersaglieresca. E mormorerebbe che un giorno, su una montagna dei Pirenei, dovette fermarsi, che era un pezzo di ghiaccio, tanto la bufera di neve e la fatica selvaggia l'avevano irrigidito e inchiodato. Ma poi riuscì ancora a piegare le dita sul gelo del manubrio e ripartì, che gli altri non erano ancora arrivati, e arrivò al traguardo, che gli altri non l'avevano ancora raggiunto. Che bello questo brano su Botecchia, è sempre emozionante e veramente da brividi ascoltare questo suo brano su Botecchia e sul Tourmalet, sui Pirenei, sull'impresa del 1924. Ci sono speranze oggi, Kautz, che succeda qualcosa di memorabile, non dico altrettanto memorabile quanto le imprese di Botecchia, ma comunque emozionante in un certo senso? Per quanto mi riguarda, speranze no, però il terreno c'è, per cui chissà, perché oggi si va veramente sui grandi classici del Tour de France, si parte da Pau, e quando si va ai Pirenei da Pau ci si deve passare per forza, si arriva alle terme di Bagnères de Luchon, in mezzo c'è il santissimo e riveritissimo Tourmalet, però è a 100 km dal traguardo, comunque si va già a 2100 di quota, per cui nelle gambe resterà da subito, poi c'è l'Orquette d'Anchisan, c'è il Valluron da Azé, e lì secondo me se una Sky, una Movistar, e non penso altri, volesse fare un po' il passo duro, potrebbero iniziare veramente a sgranarsi, e quindi arriva il Peyresourde, che è una delle salite più stronze dei Pirenei, che ha delle pendenze che non mollano mai, dei muretti ogni tanto che fanno davvero male, e qua sì, se qualcuno accende il frullatore, per usare un'espressione che magari fa ricordare già qualche corridore, considerando che le gambe saranno già ben frullate, qua sì, si può far casino. Dopodiché 15 km tutti in discesa e si arriva al traguardo, dove comunque secondo me arriverà una fuga. Ah, ma scusami, com'è la discesa dal Peyresourde, impegnativa? È una discesa non male, niente di incredibilmente tecnico, però è una discesa in cui comunque bisogna stare attenti, bisogna arrivarci comunque ancora lucidi. Quindi tuo pronostico fuga, qualche nome in particolare ci daresti? Ma i nomi mi sembra che siano abbastanza emersi per le fughe, penso a Mike, a De Gendt, Jarlinson Pantano è un nome che mi aspetto nelle fughe di queste tappe, sicuramente un Bora Argon 18, potrebbe essere Usarski, e poi sono dei nomi fuori classifica interessanti, non lo so, Ten Dam o anche Rui Costa, oggi potrebbe essere un giorno per Rui Costa. Riccardo, secondo te? Sì, anche secondo me arriverà sicuramente, quasi sicuramente una fuga, qualcuno che magari parte per la maglia Pua, quindi cerca di prendere i punti per la maglia Pua, quindi sì, o Rui Costa o Maika. Io invece voglio differenziarmi come sempre e dico che non arriva la fuga, ma ci sono Movistar e Sky che tirano fortissimo e chiudono sulla fuga, restano in 10 davanti, di cui almeno 8 di Movistar e Sky, e poi però vince Joachim Rodriguez, che ho visto benissimo in questi giorni e mi sembra possa essere una tappa adatta a lui. Anche al suo amico Valverde, volendo. Io penso anche che Valverde, che oggi non ci si giochi ancora molto la maglia gialla finale, ma c'è una maglia gialla ancora transitoria che ne coinvolge di nomi, perché Valverde è lì vicinissimo. Alaphilippe se tiene, questo finale è tagliato su misura per Alaphilippe, chissà se riesce ad avere le gambe per arrivarci. Lui potrebbe prendere la gialla, giusto, in caso di Van Avermaet staccato dal gruppo. Sì, beh, la classifica dice che Alaphilippe e Valverde sono subito alle spalle di Van Avermaet. Si è inserito Yates in mezzo, non capisco come, visto che ieri è arrivato in maniera particolare. Vediamo un po' come va a finire, vediamo se riescono a prendere quasi 6 minuti a Van Avermaet, che non è così scontato. Non è scontato. Allora non ci resta che metterci comodi e vedere come si evolverà la tappa di oggi. Prima però dobbiamo ringraziare Riccardo, che è tornato con noi stamattina. Ciao a tutti. Francesco, resta con noi, Ricca, basta cambiare. Sì, vediamo se io oltre lo studio ho delle montagne per superare gli esami, che sono i Pirenei, e mi sa che mi siederò sul divano. Bravo. E quindi gli esami salteranno. No, va bene, anche Francesco, che è nostro malgrado, e a Pau a divertirsi. A Pau, l'ho detta come la dice lui, attenzione. Angelo Trofa, che ritroveremo stasera col suo notturno. E adesso, Kautz, cosa ci resta? Adesso resta la lunga attesa per il coro dei tifosi di Vegard Brenne. Nella lunga attesa si inserisce Dino Zandegu con la sua sigla di chiusura. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che la sigla di chiusura è diversa da quella di entrata, perché il testo di Zandegu è diverso, quindi ascoltatela. Ciao! Vieni al Tour de France, vieni insieme a me, un giro come quello al mondo non ce n'è, c'è la maglia gialla, la maglia Pua, poi chi vince il Tour nella storia entrerà. Olè!